Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Bell'amore è uno dei grandi misteri del mondo. Da un certo punto di vista gli amori si assomigliano e da un altro punto di vista non esiste una storia d'amore uguale a un'altra. Poi ci sono delle storie particolari per le quali tu hai grandi piaceri e soffri allo stesso tempo, persone che non riesci a lasciare ma con le quali stai malissimo quando siete in due a vivere una vita comune. Nella storia di oggi gli eventi sono di questo tipo, anche se poi andranno, ahimè, a precipitare. La protagonista è una donna molto bella che ha infiammato i cuori di due uomini e che è stata travolta da questo amore. In realtà è stata soprattutto travolta da se stessa. Oggi raccontiamo la storia di Paola Yates. Colwyn Bay è una cittadina del Galles, una località balneare del nord, anche se ovviamente balneare a poco, perché il clima del Galles non è certo quello di Lampedusa. Elani Smith è una showgirl che si diletta di sculture e di racconti erotici. Il marito invece, Jess Yates, che è più anziano di lei di quasi 20 anni, conduce una trasmissione televisiva di carattere religioso. Insomma, quindi è una famiglia piuttosto strana, il diavolo e l'acqua santa. In questa famiglia nell'aprile del 59 nasce una bambina, si chiama Paola Elizabeth Yates. Di lei si sa che vive un'infanzia instabile e resa ancora più difficile dal fatto che nel 75 i genitori si separano. Paola rimane a vivere con la madre e nel 79 si trasferisce a Londra, comincia a scrivere recensioni musicali per un giornale che si chiama Record Mirror. Insomma, si dà da fare, lei ha una rubrica con un titolo che la rappresenta, Natural Blonde, bionda naturale. È una ragazza molto bella e ogni tanto posa come modella, riesce anche a arrivare a posare su Penthouse, quindi su un giornale, insomma, sul quale i servizi sono di un certo tipo per la gioia di noi uomini. Poi nell'82 c'è una svolta professionale perché diventa presentatrice per Channel 4 di un programma che diventerà uno dei più popolari della televisione inglese, The Tube. Era una trasmissione molto divertente, una specie di contenitore assolutamente libero dove nessuno ti metteva restrizioni e potevi parlare liberamente di musica. Era un programma diverso da tutti gli altri perché era imprevedibile. Quando lavoravi ad altri programmi che erano noiosi perché ti veniva detto tutto quello che dovevi fare, ti rendevi conto quanto fosse incredibile The Tube, di quanto fosse genuinamente anarchico in qualche modo, perché non ti davano restrizioni, si partiva e basta. Paola Yates si presenta con i capelli biondissimi, corti, indossa una aderentissima tuta in gomma nera che la rende molto sexy. E anche per questo probabilmente The Tube diventa uno dei programmi più popolari della TV inglese e incontra e intervista tutti, da Mick Jagger a Elton John a Simon Le Bon. Insomma, la musica degli anni 80 si siede nel salottino sexy delle interviste di Paola Yates e diventa popolare, desiderata, ma lei non è disponibile, almeno ufficialmente, ma non è disponibile soprattutto perché nel 76 è iniziata una relazione con un cantante irlandese di un gruppo punk che sono i Boomtown Rats, e il cantante è Bob Geldof. E così nel 76, un attimo prima che il punk cominci a fare proseliti in tutta l'Inghilterra e poi nel mondo, i due si conoscono, scoppia una passione che prosegue. Nel 1983 nasce la loro prima figlia, Fifi Trixie Bell. E è un periodo che lei è molto popolare, anzi direi quasi che Bob Geldof, dopo i fasti di I Don't Like Mondays, ma un attimo prima dei grandi concerti e dei Live Aid da lui organizzati, Bob Geldof viene addirittura soprannominato Mr. Yates. Poi però finalmente anche lui ha un coronamento di carriera, anche se legato a un evento benefico, e insomma l'anno successivo, finalmente paritetici, i due decidono di sposarsi a Las Vegas. Insomma, fino a questo momento la storia è, diciamo, rose e fiori, successo professionale, una figlia, l'abbiamo raccontato anche quando abbiamo parlato di Bob Geldof, e in realtà lei vive una vita difficile perché è insicura, è piena di complessi, forse complessi che le provengono da quella infanzia particolare, con due genitori con visioni della vita opposte, e insomma, come tutte le persone ansiose e tormentate, anche Paula Yates si rifugia nella religione di quegli anni, cioè la droga, che la accompagnerà per tutta la vita. Intanto nell'82 era successo un episodio che avrà ripercussioni più avanti, perché a The Tube, al programma di Paula Yates, arriva un gruppo australiano, diciamo emergente, si chiamano In Excess. Il cantante è un ragazzo molto affascinante, si chiama Michael Hutchence. Sembra un'intervista come tante, però si gioca un po' sui doppi sensi, sui pantaloni di lui che sono stretti, sui sguardi maliziosi. Insomma, è il primo incontro che avrà, ahimè, conseguenze terribili, anche se inizialmente importanti, quando i due avranno di nuovo occasione di incontrarsi. Il falco e il gabbiano. Insomma, questo approccio tra Paula Yates e Michael Hutchence rimane, come dire, fuoco sotto la cenere. Lei comincia a seguire con molta attenzione la carriera degli In Excess, e è probabile, o come dire, temo che i due abbiano avuto anche occasioni per incontrarsi, per approfondire la loro conoscenza. Però intanto il matrimonio prosegue. Paula Yates e Bob Geldof hanno altre due figlie. Nell'89 nasce Peaches e l'anno dopo Pixie, la terza. Intanto Bob Geldof è diventato una star di livello mondiale, e nel 92 è diventato produttore di un programma televisivo che ancora una volta vede come protagonista la moglie Paula. Il titolo di questo programma è The Big Breakfast. Insomma, Bob Geldof, per eccesso d'amore nei confronti della moglie, sta cominciando a scavarsi la fossa da solo, perché questo, che è un classico contenitore del mattino con tante rubriche, con servizi e ospiti, è un programma ambientato in una casa. Ci sono varie stanze e poi c'è la camera da letto, e nella camera da letto c'è l'angolo che Geldof ha ritagliato per la moglie Paula. Si parla di interviste, personaggi famosi, e tutto avviene a letto, quindi Paula Yates si sdraia accanto all'intervistato di turno, e arriva gente come Robert Plant, come Boy George, come Robin Williams, come Keanu Reeves, e la popolarità della bionda e affascinante presentatrice arriva a livelli altissimi. Per iniziare oggi a Big Breakfast abbiamo un ospite. Un ospite così incredibile che non saprei nemmeno come descrivervelo. Ma lo vedrete tra un attimo. Ragazzi, questo è un ospite che ha dei problematici pantaloni attillati. Questo è un ospite che ha tutto quello che una rock star deve avere. Il pericolo, il talento, capelli ricci e l'ironia australiana. Questo è l'ospite che voglio avere. La mia gamba è proprio su di lui. È l'incredibilmente talentuoso Michael Hutchence. It's the fantastically talented Michael Hutchence. 1995, sul letto di Paula Yates si sdraia Michael Hutchence. L'intervista è un po' troppo disinvolta, sguardi complici, sorrisi, un clima, insomma, che lascia intendere a tutti che tra i due ci sia qualcosa di più di un semplice rapporto professionale. I tabloid inglesi cominciano a spettegolare su una serie di incontri che sembra i due abbiano avuto negli ultimi anni. Insomma, il puzzle comincia a comporsi. Tra Paula Yates e Michael Hutchence c'è qualcosa di più di una semplice amicizia. Bob Geldof non ci sta e i due si separano nel febbraio dello stesso anno. La cosa fu percepita da tutti come se io avessi lasciato una specie di santo. In Inghilterra il tradimento è ancora un peccato gravissimo, ma la cosa più grave era il fatto che io lo avessi lasciato per una rockstar australiana. Forse ci fu anche un pizzico di invidia da parte di mio marito, dal momento che deve essere difficile suonare nei pub quando qualcun altro suona in uno stadio. E così quella che sembrava una coppia di grande successo si sfascia in pochi mesi. E la separazione peraltro non è assolutamente indolore, perché in mezzo ci sono i figli e, come accade quasi sempre, i figli si trovano a essere l'oggetto del contendere e anche il territorio sul quale riversare i rancori sopiti. Ognuno dei due vuole l'affidamento delle figlie e la battaglia finisce come sempre nelle aule di tribunale. Il carattere fragile di Paula Yates viene messo alla prova, perché Bob Geldof è un irlandese, un combattivo, vuole a tutti i costi ottenere la custodia delle tre figlie, è molto avvelenato con Agnes e lei in maniera poco elegante addirittura parla di rivalità professionali, perché Bob Geldof aveva meno successo del suo rivale. Insomma, non è così, però la guerra è senza esclusione di colpi, anche perché dall'altra parte c'è questo australiano innamorato che vuole prendersi cura della sua compagna, che vuole stare vicino a lei, ma c'è da un lato il fatto che gli NXS sono famosissimi, vanno in tournée per tutto il mondo, e dall'altro il fatto che lei è a combattere per la custodia delle figlie. Insomma, alla fine lei crolla, comincia a darci dentro pesantemente con la droga, rischia la vita per overdose di medicinali, si parla addirittura di tentato suicidio. Speravo che davanti a una situazione come questa Bob avrebbe capito che le cose non potevano andare avanti in questo modo. Volevo spaventarlo per cambiare il suo atteggiamento. Era un modo di dire: basta, per favore, basta. Just please stop. E poi a peggiorare la situazione ci sono i paparazzi che seguono la nuova coppia a caccia di fotografie da mettere in prima pagina, e Paula Yates è sempre più debole, non riesce a resistere alla pressione. La ragazza solare dalla battuta sempre pronta è scomparsa, ha lasciato il posto a una persona fragile che trova nell'eroina l'unico rimedio per lenire questo dolore insopportabile. Alla fine l'unica soluzione sembra essere la fuga da Londra, si trasferisce con le figlie a Hastings in provincia, lontano dai riflettori. Insomma, dopo una carriera di colpi d'ala positivi si sta prospettando per Paula Yates un volo verso il basso, però neanche lei sa ancora quanto questo colpo d'ala sarà tragico. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Paula Yates, la presentatrice inglese che, dopo avere conquistato il cuore di Bob Geldof, dopo essere diventata una star della televisione inglese, dopo aver avuto tre bellissime figlie, quindi una vita stupenda, incontra un altro uomo, il cantante australiano Michael Hutchence degli NXS, e questo provoca, ahimè, cadute anche verso il basso, perché arrivano le separazioni, le cause legali per l'affidamento delle figlie, e arrivano soprattutto i modi di reagire a tutto questo tipo di pressioni, quindi arriva la droga e arrivano i tentati suicidi. Adesso bisogna ripartire, bisogna voltare pagina per il bene delle figlie, bisogna superare l'odio, recuperare la tranquillità perduta. Si riparte da una casetta di provincia a Hastings, dove Paula Yates si è trasferita nel 96. Intanto a luglio di quell'anno è nata Tiger Lily, la figlia che la Yates ha avuto col suo nuovo compagno Michael Hutchence. Quando Tiger Lily è nata, ho sentito che dovevo fare qualcosa, scappare da tutto, dai fotografi, perché volevo proteggerla e farla crescere in un ambiente più tranquillo. Inoltre Michael era all'apice del successo ed era difficile vederci come una normale coppia. Michael Hutchence intanto sta vivendo il suo momento d'oro, perché gli NXS sono famosi in tutto il mondo, sono ai primi posti delle classifiche e lui ha già dei contatti con produttori americani che vorrebbero addirittura lavorare a un suo disco da solista. Poi c'è la bambina Tiger Lily e poi c'è Paula, insomma sembra essere un momento totalmente positivo. Parlavamo di matrimonio. Volevamo farlo quando la bufera fosse passata. Ormai io avevo ottenuto il divorzio e volevamo solo che si calmassero le acque per non avere di nuovo i giornalisti addosso. Pensavamo che Natale sarebbe stato il periodo giusto per farlo. In realtà la situazione è molto complicata, molto più di quello che racconta lei, perché Bob Geldof sta facendo di tutto per ottenere la custodia delle figlie. Questa è una guerra senza quartiere che va a intaccare la tranquillità della nuova coppia. Anche Michael Hutchence, almeno a quanto racconta lei, è devastato da questa attesa fatta di udienze, avvocati. Intanto l'australiano sta vivendo la sua vita da rockstar sotto tutti gli aspetti, perché anche lui è un consumatore di droga. Insomma, c'è uno stato di negatività che sta permeando la vita di questa coppia. Prima o poi, quando si vive in questi stati di ansia e depressione, può anche accadere qualcosa. Il corpo di un cittadino australiano residente in Inghilterra è stato scoperto in una camera al quinto piano dell'hotel Ritz-Carlton di Sydney dal personale dell'hotel questa mattina. La polizia sta facendo tutti i rilievi per stabilire le cause della morte. Eh sì, il 22 novembre 1997 il corpo senza vita di Michael Hutchence viene trovato nella camera dell'hotel dove soggiornava durante il tour australiano. Lo trovano impiccato con una cintura alla maniglia di una porta. La morte di Michael Hutchence è un colpo durissimo per Paola. Lei stava preparando il viaggio per raggiungere il compagno e organizzare un matrimonio e invece deve andare al suo funerale. E poi c'è l'inchiesta sulla morte del cantante, si parla di suicidio, si parla di un mix di alcol e droga a cui Hutchence arriva al culmine di una crisi di depressione. Poi in realtà si parla di un gioco erotico plurimo o singolare, una pratica sessuale finita male, non si saprà mai la verità. Però chi sta soffrendo più di tutti è lei, è un altro colpo durissimo. Sentite la sua risposta rilasciata a un giornalista che parla con sicurezza di suicidio. But the coroner didn't meet him or know him, and he would not have left our baby. He just loved her, and you've seen her. Nobody has a baby like that that hasn't been brought up, just loved. So he wouldn't have left her. Never. Sentite, lei dice che il medico non conosceva Mike, lui non avrebbe mai abbandonato la figlia. Dice che amava troppo la figlia e anche lei, che si amavano, che dovevano sposarsi, e continua a ripetere ossessivamente: non ci avrebbe mai lasciati. E abbiamo voluto farvela sentire così perché è perfettamente esplicativa dello stato d'animo di prostrazione nel quale era Paula Yates nel momento di quell'intervista. E poi arriva il 1998, Bob Geldof vince la causa per l'affidamento delle tre figlie. A lei rimane solo Tiger Lily, che è l'ultimo ricordo vivente del suo amore spezzato. E sono anni veramente duri per lei, la vita diventa veramente una salita sempre più ripida e scivolosa, alla quale è impossibile abbarbicarsi, è stremata moralmente e deve affrontare un'altra terribile notizia. Jess Jates, il padre di cui porta il cognome, non è il vero padre, perché il famoso conduttore Hugh Green rivela di aver avuto una relazione con la madre di Paula Yates e quindi rivela che lei è sua figlia, e questo lei lo apprende dai giornali. Troppi eventi negativi in un periodo così breve, e l'unico modo per reagire è il solito: la droga. Paola è tornata a vivere a Londra in un appartamento a Notting Hill, uno dei quartieri più eleganti, e vive una vita riservata, un po' per proteggere la piccola Tiger Lily, ma poi perché ha perso l'interesse in per tutto quello che l'ha resa famosa, la musica, la televisione, rimane poco, niente della ragazza brillante, dalla battuta sempre pronta che aveva conquistato il pubblico della TV inglese. Troppi colpi d'ala negativi, adesso lei è stanca e rassegnata. La mattina del 17 settembre del 2000 squilla il telefono e non risponde Paola. Risponde la piccola Tiger che ha 4 anni. Dall'altra parte del telefono c'è una giornalista amica della madre. La bambina dice che la mamma dorme e che non riesce a svegliarla. Purtroppo l'amica capisce che la realtà è ben diversa. Paola Yates viene trovata riversa sul letto e svestita, coperta dal suo vomito con alcune bottiglie vuote di vodka. Verrà dichiarata morta per abuso di stupefacenti. Nella sua camera vengono trovate tracce di eroina, cocaina, marijuana e i testimoni ricordano di averla vista la sera prima passeggiare a piedi nudi, ubriaca, in stato confusionale dopo aver acquistato, come faceva spesso, delle bottiglie di vodka nel negozio all'angolo. Tutto questo con la bambina che la stava aspettando a casa. Bob Geldof compie un gesto nobilissimo perché mette da parte gli antichi rancori, si occupa intanto di organizzare personalmente il funerale di Paola Yates e poi fa un'altra cosa, secondo me un colpo d'ala, perché adotta lui la piccola Tiger Lily, la accoglie in casa sua come se fosse una figlia. La bambina che lo aveva tanto fatto soffrire, la figlia del tradimento, in realtà sorella delle sue figlie, e quindi Bob Geldof ricompone faticosamente questa famiglia. Questa storia purtroppo porta con sé una serie di eventi a catena, ognuno dei quali influenza drammaticamente l'evento successivo, perché nel 2014 Peaches Geldof, figlia di Bob e Paola, muore di overdose di eroina, esattamente come era accaduto alla madre. In un'intervista lei aveva dichiarato di non essere mai riuscita a superare il trauma della morte di sua madre, una donna che era stata una star della televisione e che poi era stata travolta dal suo mondo, dai suoi eccessi, dai suoi amori. E per ironia della sorte, uno dei successi degli In Excess si intitolava Suicide Blonde, la bionda suicida, e purtroppo questa è stata una canzone, ahimè, molto, molto profetica. Troppe volte nella vita delle bellissime fiabe poi hanno un declino imprevisto, terribile, come la storia di Paola Yates, grande, simpatica, brillante presentatrice televisiva, travolta prima dal suo tradimento e poi dai suoi fantasmi, colpi d'ala in positivo che ahimè a volte portano poi a delle picchiate repentine. Noi vi aspettiamo con altre storie, segnalate via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se anche voi conoscete delle storie che meritano di essere raccontate. Poi interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei social Facebook, Twitter, Instagram, su quelli della radio, della trasmissione, insomma, se volete lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Generation.